conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non devi riconoscerlo, non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Questo mare annegasse.